nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, il programma dedicato alle donne che lavorano e a tutte le diverse sfumature, più di 50, state sicure, più di 50, dei colori che accompagnano la nostra vita privata, professionale, le emozioni che ci sono, le angosce, i sentimenti e insomma tutte quelle cose che poi certe volte ci portano a farne tante e insieme di cose. Lo sapete, qui a Nessuna è Perfetta noi abbiamo una convinzione, una ce l'abbiamo, almeno una. La convinzione è che il multitasking è una fregatura, che ce l'hanno imposto per farci fare tante cose meno bene di come potremmo farle se ne facessimo meno, e noi ogni domenica su questo torniamo un po', giusto per ricordarcelo. Ma non è la sola cosa di cui questa domenica vogliamo parlare. Perché siamo multitasking, perché facciamo le mamme, facciamo le mogli, facciamo le figlie, facciamo le donne che lavorano e poi vorrebbero anche per essere minimamente inserite nel mondo in cui vivono, vogliamo leggere un giornale, vedere un film, andare a fare una passeggiata, tenerci in forma. Tutte cose che si devono fare e fare tutte insieme, ma certamente la cosa fondamentale spesso è conciliare lavoro e famiglia. Ebbene, questa è stata la settimana in cui miracolosamente, dico miracolosamente perché non succede sempre in questo paese, anzi non è successo quasi mai, il tema del conciliare lavoro e famiglia ha occupato le prime pagine dei quotidiani e tantissime trasmissioni TV e anche questa trasmissione. Perché conciliare lavoro e famiglia è diventato improvvisamente fondamentale per il dibattito in Italia dal momento in cui c'è entrata la politica. Si è parlato tutta la settimana di Giorgia Meloni e del caso innescato dal suo competitor Bertolaso, candidato al comune di Roma, che in una trasmissione televisiva in onda sulla 7 ha detto: ma perché si vuole candidare Giorgia Meloni? Aspetta un bambino, ma chi glielo fa fare? Ma si goda il momento più bello della vita di una donna? Comunque è scoppiato un finimondo e impossibile non parlarne anche noi qui oggi, questa domenica a Nessuna è Perfetta. Ecco, buona domenica Corrado Passera, ricomincio da 5 quello che ho imparato dalla vita e dai miei figli. E l'ultimo figlio è appena arrivato e facciamo tanti auguri a Eugenia, bellissimo, bellissimo nome. Ecco, intanto la prima cosa è, quando ha letto di tutte queste polemiche, questi commenti, Bertolaso che diceva consiglio a Giorgia Meloni di fare la mamma, la sua prima reazione qual è stata? No, disgusto, cioè proprio utilizzare la cosa più bella una delle cose più belle della vita per mettere delle donne in un angolo dicendo non potete fare il lavoro degli uomini, voi che aspettate un figlio, è una cosa vergognosa quella che è stata fatta. Una donna può fare qualsiasi cosa prima, durante e dopo la gravidanza e guai a privarla di questo diritto che le spetta. Vorrei chiedere a lei, nelle sue 5 vite, no? È stato responsabile di Olivetti, di Poste Italiane, di Intesa San Paolo, è stato ministro del governo Monti e ora si candida a sindaco di Milano. Concretamente, il filo rosso delle cose che ha fatto per le donne, ha promosso donne in azienda quando era amministratore delegato o no? E nel suo programma per Milano che cosa ha per le donne che vogliono continuare a lavorare e avere anche una città a loro misura? In azienda abbiamo sempre dimostrato che c'è spazio concreto per rendere non soltanto teorici ma concreti i diritti delle donne, di essere pari in termini di stipendio, di responsabilità, di essere messe in condizioni di poter essere pari, perché sa, se a un certo punto un paese non offre la scuola a tempo pieno è facile dire dovresti lavorare, ma se non c'è la possibilità di sistemare i figli, certo, che diritto è? Una città può fare moltissimo, già dare, garantire asili, nido e scuole materne a tempo pieno già cambia la vita di tante famiglie, di tante donne. C'è il tema anche un comune può fare moltissimo per rendere il lavoro, cioè il lavoro in comune, può essere proprio un bel esempio di lavoro intelligente, di lavoro flessibile, di lavoro da casa, di lavoro in orari compatibili. Anche lo stesso tema del congedo parentale quando c'è un bambino in arrivo, perché deve essere solo della donna e quindi quasi un costo legato perché soltanto gli uomini alle donne? Si vergognano a chiedere il congedo di paternità a passera. Bisogna farlo disgiunto per legge in modo tale da costringerli, come abbiamo fatto per le quote rosa. Certo, uno potrebbe un pochettino stortare la bocca perché le quote rosa nei consigli di amministrazione potrebbero essere considerati non meritocratici, a parte che non è così, ma in quel modo abbiamo forzato una abitudine che non succedeva. Era inutile dire siamo meritocratici e poi le donne non venivano messe nei consigli di amministrazione. Quindi io ho molto appoggiato quella legge proprio per quella ragione. In questo momento, secondo lei, quali sono i metodi per attaccare una donna che vuol fare politica? E sono metodi diversi da quelli che si utilizzano per gli uomini? Penso, che ne so, al caso di Patrizia Bedori, che i giornali e le TV hanno spesso anche, come dire, subdolamente, no? messo un po' nell'angolo perché non aveva un fisico da mannequin. No, vabbè, ma quello proprio è l'ultimo strato della politica, e questo vale sia per gli uomini che per le donne: attaccarsi all'aspetto, attaccarsi all'età, attaccarsi al sesso. Purtroppo siamo in un momento pessimo da questo punto di vista, proprio di non rispetto delle cose fondamentali. Certo, per proporsi sindaco di una grande città bisogna prepararsi, non bisogna essere attaccabili su niente quando si entra nel merito delle cose, quando si entra nella concretezza delle proposte, e non sempre tutti i candidati sindaci dimostrano questa umiltà nel prepararsi, questa capacità di ascolto che poi permette di fare delle proposte concrete, ma nulla hanno a che fare con la pressione alla quale è stata poi costretta la candidata Bedori, che veramente ha tutta la mia solidarietà. Senta, l'ultima domanda: quello che ho imparato dalla vita e dai miei figli è il sottotitolo di Ricomincio da 5, il suo libro. Non le chiedo quello che ha imparato dalla vita, ci vorrebbe l'intera puntata. Mi dica una cosa che ha imparato dai suoi figli. I miei figli sono stati proprio bravi nei momenti difficili della vita, sono stati presenti quando la loro mamma ed io abbiamo deciso di separarci e poi di divorziare, e loro lì hanno dimostrato la maturità, l'equilibrio, la capacità di essere comunque ponte, di accettare anche i loro genitori nelle loro difficoltà e nelle loro così debolezze. Ci hanno restituito tutto ampiamente quando è stata la volta di mostrarsi. E da sua figlia piccola Luce, che è la più grande dei tre piccoli che ha, che cosa impara? Questa gioia per la vita, questa apertura al mondo, questo guardare lontano apertamente. Ecco, cioè lei ha ancora un'età in cui si vuole guardare con fiducia la vita. Ecco, la prima cosa che i genitori devono fare coi figli è garantire loro questa sensazione di amore. In una settimana in cui è emerso che gli italiani sono al 50° posto nella graduatoria della felicità, fa piacere avere i bambini vicino, perché almeno loro, diciamo, ci trasmettono l'energia che noi adulti spesso manchiamo un po' di avere. E la prima delle felicità è proprio quelle che i figli ricevono dai genitori, sentendosi amati, sentendosi accuditi, sentendosi accettati per quelli che sono. Grazie, grazie, buona domenica a Corrado Passera, autore del libro Ricomincio da 5, e buona domenica al nostro agente provocatore. Grazie mille, a presto, arrivederci. Nessuna è perfetta. Bentornati, questa è la parte più domenicale della domenica di Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Questo è il momento della nostra Sunday Girl. E chi poteva essere questa domenica la nostra Sunday Girl se non Giorgia Meloni? È su tutti i giornali, su tutte le TV, su tutte le radio. Lo spot della maternità in questo momento è Giorgia Meloni. C'è chi dice che Bertolaso e Berlusconi le stanno facendo la campagna elettorale. Beh, potrebbe essere, in effetti. Intanto buongiorno ovviamente a tutti i radioascoltatori, la radioascoltatrice, ovviamente a lei Maria Latella, un po' sì, nel senso che in effetti insomma è uscita un po' male questa frase. Però Bertolaso l'ha messa giù paternamente, dice: lo dico come medico, oltre che come stimatore, si goda questo momento irrinunciabile. Questo infatti è un altro tema. Bertolaso, secondo me, insomma, un po' sbagliato nella comunicazione. È vero che gli intenti erano meno diciamo perentori di quanto non possa sembrare da come la stampa l'ha ripresa. Le hanno detto bella coerenza, prima in un'intervista al Corriere della Sera dice no, non mi candido, voglio fare la mamma, e dopo invece si ripensa e dice sì, mi candido. Hanno detto bella coerenza. Beh, allora no, voglio fare la mamma non l'ho mai detto, perché la mamma la farò comunque e la voglio fare, e ho deciso di farla nel momento in cui ho deciso di avere un bambino. Ho detto vorrei godermi la maternità e quindi me la sarei obiettivamente goduta in un'altra maniera, però sono stata molto coerente, perché io ho detto dall'inizio di questa vicenda: guardate, preferirei godermi la maternità, mi candido solo nel caso in cui non riusciamo a trovare un altro candidato che possa essere competitivo per la vittoria. Quindi noi l'abbiamo chiamata la famosa estrema ratio. Poi effettivamente Forza Italia dice che Bertolaso è perfettamente in lizza e che sta a molti punti di vantaggio sopra lei. Diciamo così, lo vedremo quando quando, però insomma, penso che quando gli alleati mi hanno chiesto di candidarmi, nonostante appunto la situazione che stavo vivendo, insomma, lo hanno fatto sapendo che tra i possibili candidati che il centrodestra poteva mettere in campo per queste elezioni amministrative a Roma, il nome più forte su tutti i sondaggi risultava quello di Giorgia Meloni. Per cui diciamo che le cose non stanno esattamente così. Tra l'altro io però insomma spero che si possa comunque ricucire nel centrodestra, perché il tema della famosa leadership, sì, Berlusconi, Meloni, Salvini, insomma sono temi di cui alla gente non frega assolutamente nulla e anche a me frega poco. Il punto è che io, forse perché tra tutti questi leader sono l'unica di Roma, ho effettivamente a cuore il destino della mia città. Quando mi sono resa conto che noi con Bertolaso al ballottaggio non ci potevamo arrivare, non lo so, c'è un problema di empatia, di una figura che ma non buca. Ma perché ci dovrebbe arrivare lei al ballottaggio? Perché se uno si fa un giro nei mercati o nelle strade o in mezzo alla gente o nei quartieri di periferia di Roma, c'è un sacco di gente che me lo chiede. Giorgia Meloni, Bertolaso ha dietro di sé la macchina organizzativa e mediatica di Berlusconi. Giachetti ha dietro di sé la macchina del PD e il governo e Matteo Renzi. La Virginia Raggi c'ha dietro di sé il Movimento 5 Stelle, il web. Ecco. Lei chi c'ha dietro? i romani. Ma, ecco, lo sapevo che avrebbe detto. Ho la presunzione di provare ad avere dietro i romani, che sono quelli che, insisto, mi hanno chiesto: ma perché non si candida? Ma perché lei è romana? Forse perché io sono quella, cioè, obiettivamente, insomma, uno dei miei tanti limiti, considerati limiti, non da me, diciamo come leader o come soggetto politico o come ministro in questi anni, che mi si è spesso fatto notare che io parlo troppo romano. Lo no? Sa che c'era una sua collega quando eravate tutti insieme nel centrodestra, Daniela Santanchè, si può fare anche il nome, che la prendeva in giro perché dice che c'aveva un accento da radio taxi romano? Sì, ma in molti mi hanno preso in giro perché tutti gli altri accenti e le altre cadenze si deve essere orgogliosi, invece di essere romani no. Invece io sono molto orgogliosa di essere romana, e anche a chi mi ha detto tante volte che avrei dovuto fare un corso di dizione, ho risposto sempre che l'italiano lo parlo perfettamente. Poi se c'è una cadenza romana, io sono fiera delle mie origini. Nella sua lunga carriera politica, che cosa ha fatto per le donne? Mi dica un provvedimento che ha fatto. Ma gliene dico uno. Vabbè, di proposte di legge ne ho presentate molte, la maggior parte delle quali non sono passate. Ultimamente è passata una mozione proposta proprio da Fratelli d'Italia, proprio in tema di sostegno alla maternità e alla natalità, dove noi impegniamo il governo a fare una serie di cose, come ad esempio il tema della fiscalità sulla base del numero dei figli, l'IVA al 4% per i prodotti sulla prima infanzia. Però questo lo dovrà fare il governo Renzi e speriamo che lo faccia. Quando io ero ministro, feci ad esempio un provvedimento da ministro della gioventù, che ricordo essere un ministero senza portafoglio, in forza del quale spendevamo qualche milione di euro per aiutare il reinserimento lavorativo delle donne madri sole, per esempio, o delle ragazze madri giovani. Quindi di cose ne abbiamo fatte, insomma, ne abbiamo fatta qualcuna in questi anni, chiaramente sempre compatibilmente con le competenze che io avevo. La fidanzata di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, ha commentato su Facebook, sempre sulla sua coerenza, si va al Family Day, alludendo a lei Giorgia Meloni, che proprio al Family Day ha annunciato di aspettare un bambino, ma poi si convive. Bella coerenza, dice la Pascale. Guardi, francamente è una lettura un po' stupida, che tra l'altro non è la prima volta che sento fare. Io vado al Family Day perché e sono andata in particolare al Family Day quest'anno a manifestare contro il tema della stepchild adoption, perché credo che una nazione giusta si debba occupare dei diritti del bambino e non del desiderio di genitorialità di una coppia di omosessuali, o comunque prima del primo e poi del secondo. E quindi per me le persone possono fare i figli sposandosi o non sposandosi. Il punto è che non credo sia giusto privare per legge un bambino della possibilità di avere un padre e una madre. Far nascere per legge un bambino orfano di madre è una cosa che io non condivido. Poi chi va al Family Day di solito viene considerato come alla stregua di uno che si mette il cilicio prima di uscire di casa, ma io sono una persona che pensa che tutti debbano fare quello che vogliono. In Italia hai tante possibilità, ti puoi sposare, ti puoi sposare in chiesa, ti puoi sposare civilmente, ti puoi non sposare, ma noi abbiamo una legislazione che tutela sempre il bambino, sempre. Comunque lei non ha intenzione di sposarsi. No, ma lo vedremo, cioè, adesso non mi continuate a fare delle domande su scelte che non dipendono solo da me. Insomma, abbiate pietà, non gli è stato ancora chiesto, e vabbè, e facciamola questa richiesta di matrimonio a Giorgia Meloni. No, vabbè, insomma, adesso per scherzare, però in effetti in queste domande poi c'è sempre una parte di privato che viene, insomma, dai, torniamo alla politica. Quindi. Torniamo alla politica. Sì. Le ha dato fastidio che sempre la signorina Pascale l'abbia definita una fascista moderna? No, guardi, non si può piacere a tutti, ma insomma parlo di politica, dai. Va bene. Senta, parliamo di politica. L'ex sindaco Gianni Alemanno ha replicato a lei, Meloni, che oggi ha sottolineato la differenza tra l'amministrazione di Alemanno, appunto, e invece il fronte che lei rappresenta, che non ha alcun indagato per mafia capitale, e insomma ha detto, dico a Giorgia, parole di Gianni Alemanno, che si è molto più credibili quando si ammettano anche i propri errori, piuttosto che fare l'imitazione delle tre scimmiette che non hanno visto, non hanno sentito e non hanno parlato. Ma noi abbiamo ammesso i nostri errori chiedendo, cioè garantendo discontinuità rispetto alla giunta Alemanno. È esattamente quello che stiamo tentando di fare, forse lo dovrebbe fare anche Alemanno politicamente parlando, perché poi sui temi giudiziari, spero che Alemanno, e sono certa che Alemanno dimostrerà la sua estraneità ai fatti che gli vengono contestati, ma politicamente quell'amministrazione è stata bocciata dai romani e noi ci prendiamo oggi le responsabilità per quella, diciamo, io personalmente molto poco, insomma, però esponenti effettivamente che oggi sono in Fratelli d'Italia hanno fatto parte anche della, dell'amministrazione Alemanno, e ci prendiamo la nostra parte di responsabilità dichiarando che vogliamo totale discontinuità rispetto a quell'esperienza. Però quello che a me non torna, al di là del fatto che capisco che Alemanno se la prenda, mi dispiace, ma io ho il dovere di dire che spero di essere un sindaco migliore Alemanno, lo spero, dopodiché penso che appunto insomma si debba avere il coraggio di dire le cose come stanno, nascondere i problemi sotto la sabbia, come un po' mi pare che faccia l'ex sindaco, è secondo me sbagliato. A proposito di dire le cose come stanno, che cosa dice della sentenza che oggi, che qualche giorno fa ha condannato Denis Verdini a 2 anni? Guardi, io la questione non l'ho seguita, quindi nel merito delle sentenze giudiziarie non entro mai troppo. Secondo lei, Denis Verdini è stata una delle ragioni per le quali io me ne sono andata dal Popolo della Libertà. Quindi politicamente, diciamo, non ho nulla da condividere con questa persona. Ho capito. L'ultima cosa che le chiedo in questa domenica, che è sicuramente segna una settimana molto Giorgia Melonizzata e anche molto, non ne posso più della mia faccia ovunque. Ecco, molto salvinizzata. Da sindaco potenziale di Roma, uno ha mai preso un trenino per andare ad Ostia al mare? Sì. E lo sa perché? Tutti gli anni della gioventù. Perché d'inverno fa freddo e d'estate fa caldo su quel trenino? No. Glielo dico io allora, così se diventa sindaco può farci qualcosa. Assolutamente. Perché sono trenini che erano stati usati, cioè acquistati perché fossero soltanto usati sottoterra come metropolitana, non sono coibentati. Fate qualcosa per Va tutti bene. Quelli che come noi vanno a Ostia col trenino. Va bene, ok, sarà fatto. Buona domenica Giorgio Meloni. Buona domenica a voi, buona domenica. Grazie. Maria. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digital radio. Nessuna è perfetta. Rieccoci a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, ed è il momento delle vostre lettere che, come sapete, potete inviarci scrivendo all'indirizzo nessunaeperfetta@radio24.it. E la lettera di oggi è un po' il filo rosso di tutta questa puntata, ce l'ha scritta Laura. Parlate tanto dell'ormai nota vicenda di Giorgia Meloni, ma a me, incinta di 4 mesi e dipendente di uno studio legale piuttosto famoso, hanno già chiesto se sarò in grado di reggere il ritmo che ho finora tenuto. Ho cercato di spiegare che la gravidanza non è una malattia, le solite cose che si dicono e che dovrebbero ormai essere condivise da tutti, ma in realtà avverto una certa pressione. Il mio capo mi ha già detto che per il momento, per non affaticarmi troppo, non mi verranno assegnati nuovi casi. Insomma, oltre a farmi quasi sentire in colpa, sono certa che qualcuno approfitterà della mia assenza per fare carriera al posto mio. Vi sembra giusto? Vi presento subito chi questa settimana con noi aiuterà a rispondere alla domanda di Laura, ma in generale al tema che per tutta questa puntata abbiamo dibattuto. Intanto benvenuto a Filippo Facci, giornalista, e la domanda è banale: dalla politica allo studio legale, ma visto da un punto di vista di un maschio, tutto questo dibattito ti sembra eccessivo, necessario? Mi sembra scandalosamente attuale, cioè mi sembra scandaloso che purtroppo possa essere ancora attuale in Italia. Intanto la questione che hai letto nella lettera la sento particolarmente mia, perché io ho una compagna, ho un figlio, e la mia compagna fu cacciata proprio da uno studio legale quando spiegò di essere in dolce attesa. Quindi non voglio essere di malaugurio per nessuno, però speriamo che a Laura vada meglio. Ecco, speriamo che a Laura vada meglio. Questo tuttavia non mi fa pensare a delle cose diverse da quelle che penso su questo argomento, cioè che siamo così indietro in Italia su questo tema, che secondo me la maternità viene vista come un qualcosa di vittimista, piagnone, iperprotettivista e financo bamboccione, più che in qualsiasi altro paese d'Occidente. E quindi questo contribuisce a far sì che ci sia un certo atteggiamento di uomini e anche di donne. Ma fammi capire, come dovremmo vederla? Perché l'atteggiamento piagnone è un po', come dire, parte, no? Forse del carattere nazionale, ma se noi volessimo ottenere il massimo, cioè che le donne che aspettano un bambino non vengano mandate via dagli studi legali, come temo possa succedere a Laura, come è successo alla tua compagna, o non gli venga detto, come è stato detto per Giorgia Meloni, ma goditi la gravidanza e lascia perdere la campagna elettorale, per ottenere questo risultato, che dovrebbe essere un risultato ormai acquisito, secondo te dobbiamo smettere di piangere? Ma come? Ma potremmo informarci meglio, per esempio informandoci su come funziona in quei paesi dove la parità tra uomini e donne è più conclamata in maniera indiscussa, e vedere se lì la maternità viene vista come un qualcosa da iperproteggere e tutelare, oppure viene vista come semplicemente un fattore in più che non impedisce alle donne di essere competitive. Perché lo dico? Perché se tu vai per esempio negli Stati Uniti, penso non ci siano dubbi sul fatto che le donne là siano più emancipate di quelle europee da tutti i punti di solito di vista. Sì, di solito sì. Di solito sì, ecco. Però se tu vai lì vedi che là ci sono mediamente meno asili nido, meno congedi di maternità, meno assistenza statale per l'infanzia. C'è una cultura lavorativa più competitiva della nostra, che sfocia anche nel fatto, intendiamoci, che l'uomo ha un ruolo e un peso molto più paritario rispetto alla donna. Si sentono, meno impediti e marginali, anche se restano a casa per 6 mesi a occuparsi del bimbo piccolo. Ma ti chiedo, da uomo italiano, tu l'avresti fatto? L'hai fatto? Allora, l'ho fatto, sì, nella misura in cui la madre, a cui ho dato sempre, come dire, il primato della volontà su questo, lo desiderava. È un fatto di legislazioni, ma è un fatto anche di mentalità, perché dal 1 gennaio di quest'anno, per esempio, è previsto l'obbligo per il padre di astenersi dal lavoro per il periodo di un giorno simbolico nei primi 5 mesi della nascita del figlio, ma non tutti lo considerano, come dire, una medaglietta da mettersi al petto. Magari qualcuno lo considera ancora una deminuzio. Tu hai detto una questione legislativa e di mentalità. Io invertirei te. Di mentalità molto, ma molto prima che legislativa, perché appunto finché in Italia si avrà questa concezione per cui comunque la donna nei confronti dei mariti, nei confronti dei genitori anziani, della famiglia allargata, dei paesi prossimi, per cui è più portata a essere vicina e quindi ha una sua specificità che fa permettere a un uomo di dire deve fare la mamma, e mai al mondo nessuno direbbe deve fare il padre, posto che sappiamo che si tratta di una maternità, senza che nessuno ricordi appunto che ci sono donne che in maternità, se gli viene permesso, continuano a fare comunque la loro vita, e non solo l'ex ministra Prestigiacomo o l'attuale ministra Lorenzin. Ma alla fine è una questione di maternità. Questa è la ragione per cui lo dico en passant, perché veramente vorrei non potermi permettere di non dirlo neanche, le frasi di Bertolaso, le frasi di Berlusconi, non so quanto siano state innocenti o meno, appunto, ma in questo dibattito italiano sono gravi, sono gravissime. Sono gravi e hanno, secondo te, il sapore del secolo scorso? Ma hanno purtroppo il sapore del secolo scorso, ma In un paese dove il suffragio universale c'è stato solo nel 1946 e appunto in altri stati, prima parlavamo degli Stati Uniti, ci sono dal 1918, insomma in parte è colpa nostra e in parte no. Comunque meno male che sul caso Meloni quasi tutti hanno dato ragione alla Meloni, che dice io posso fare la mamma ma anche la campagna elettorale. E per chiudere, Filippo Facci, dai ragione anche tu? Io sono amico della Meloni e l'unica cosa che le concedo è di decidere. Lei potrebbe anche dire voglio fare la mamma, però sono fattacci suoi, cioè punto, questo è l'unico diritto che possiamo concedere, di fare la mamma perché lo dice lei. Adesso andiamo subito a sentire l'altra esperta di questa nostra puntata, Alessia Mosca. Intanto grazie a Filippo Facci che è stato con noi per questa domenica. Grazie, ciao. Ed eccoci, andiamo allora subito da Alessia Mosca, europarlamentare del Partito Democratico, prima firmataria della legge per il rientro dei cervelli in Italia, e con Lella Golfo della legge sulle quote di genere nei consigli di amministrazione. Vivendo a Bruxelles, penso che il dibattito che ha appassionato l'Italia in questi giorni sul caso di Giorgia Meloni, che possa o non possa fare la campagna elettorale e diventare sindaco di Roma perché è incinta, ti appaia un dibattito lunare, però invece in Italia è più che mai vivo. Sì, è assolutamente lunare in Europa, ma siccome sono italiana, immersa totalmente nelle vicende e conoscendo bene quale sia la situazione purtroppo ancora in Italia, non mi ha così tanto stupito, tristemente. Ecco, ma l'OCSE ha pubblicato di recente un brief sul congedo parentale, sull'importanza che questo venga utilizzato anche dai padri e non solo dalle madri. Finché non si cambia la mentalità dei padri, soprattutto in Italia, ci saranno sempre uomini che la penseranno come il candidato, il competitor di Giorgia Meloni, Bertolaso, che magari in buonissima fede ha detto ma goditi la maternità, ma perché devi metterti a far campagna elettorale? Sì, io credo che la legge non possa risolvere tutto, ma talvolta aiuta ad accelerare dei processi di cambiamento culturale e quindi sono una sostenitrice convintissima del fatto che ci sia un congedo di paternità obbligatorio. Non basta quello, però certamente questo può davvero fare in modo che ci sia un approccio differente sul posto di lavoro e in tutti i luoghi in cui vengono prese delle decisioni. Per esempio, nel tuo caso, tu hai fatto campagna elettorale, hai fatto politica mentre aspettavi la tua bambina e poi ti sei trasferita a Bruxelles quando sei stata eletta all'Europarlamento con una bambina piccolissima. Il fatto di avere un marito che sostiene queste scelte è stato certamente un aiuto. Sì, io dico che si possono fare queste scelte. È chiaro che si deve pagare un prezzo, quello che è importante è che ci sia la libertà, che davvero ci sia la libertà di scegliere, perché legittimamente una donna può decidere che si prende un periodo di tempo per godersi la maternità ed è giustissimo e io anzi credo che sia giusto che venga riconosciuto in modo positivo questa scelta. Il problema è quando qualcun altro impone che si faccia questa scelta. Questo è il nodo e questo è l'elemento culturale, lo scarto che fa essere un paese ancora arretrato come il nostro, lo fa diventare un paese europeo culturalmente. Ecco, in conclusione, la tua valutazione di politica e di cittadina italiana che vive all'estero, alla fine di tutta questa settimana, è stato un bene che si sia scatenato l'inferno sul caso di Giorgia Meloni? Da un certo punto di vista sì, perché altrimenti queste questioni rischiano di essere relegate sempre agli ultimi posti come accessorio e non come elemento sostanziale delle politiche. Ed è un richiamo in più, se mi è consentito, anche al fatto che alcune donne, e proprio mi riferisco a Giorgia Meloni, alcune donne che non sono state particolarmente sostenitrici di battaglie di genere, purtroppo, e mi dispiace che abbia dovuto viverla sulla propria pelle, ma magari si rendono conto

tenere in considerazione quelle che dobbiamo anche lasciare andare, perché comunque ci servirà un tempo, sarà magari un'esperienza particolare, magari il primo figlio. Quando saremo in quella situazione vorremmo anche godere del nostro tempo, perché cambierà magari il nostro sentimento, a volte cambiano anche gli obiettivi, no? Fino alla nascita magari noi pensiamo di proseguire con i nostri obiettivi, con le cose che vogliamo ottenere, poi questo momento ci invita magari a fare altre riflessioni, in conclusione. In conclusione, l'ultima cosa che ti chiedo, non so se hai seguito un po' la dinamica del dibattito, ma da coach, quando Bertolaso ha detto in TV a Giorgia Meloni, ma perché devi fare la campagna elettorale, te lo dico da medico, ma goditi la parte più bella della tua vita, è stata gestita bene secondo te da Giorgia Meloni la replica? Direi che entrambi hanno sbagliato il verbo. Nel senso che Bertolaso ha detto deve fare la mamma, sì, e la Meloni dice io posso fare la mamma e posso fare il sindaco. Bene, essere una mamma, cioè essere una mamma è come essere un padre, no? Non si tratta di fare, la cosa che fai in qualche modo è esterna a te. Quindi se io sono un politico che può essere una madre, così come sono un politico che può essere un padre. Quindi il verbo da usare era essere, non essere fare. Essere e non fare, e non fare. Così essere madre è una questione poi immutabile. Quindi noi, essendo madri, possiamo certamente fare delle cose, ma possiamo anche essere delle persone che si muovono in un contesto sociale con le stesse capacità, competenze e magari ancora qualche competenza in più, perché abbiamo una sensibilità diversa, così come quando siamo padri. Grazie, e forse grazie. Il tempo che è richiesto dall'essere padre o madre forse è più importante nel durante che non nei mesi in cui siamo lì ad attendere. Dura a lungo, infatti. Grazie Carla Ciani, grazie a tutte voi che ci avete seguito e a tutti voi che ci avete seguito in questa puntata con questo fil rouge. Noi vi aspettiamo, come sempre, domenica prossima.